è considerato, diciamo, il sito per la vendita di dischi e musica più equo che ci sia, soprattutto nei confronti dei musicisti indipendenti, per i musicisti emergenti, perché a differenza di altre piattaforme musicali trattiene una commissione molto più piccola e riconosce delle royalties molto più alte ai musicisti, diciamo dell'80-85% delle royalties di ciò che si incassa viene riconosciuto direttamente all'artista, e quindi è considerata una piattaforma, viene chiamata così con questo epiteto, l'anti Spotify, perché è risaputo che Spotify, che è sicuramente la piattaforma, una delle piattaforme più utilizzate per ascoltare musica in streaming, riconosce delle royalties molto basse soprattutto ai musicisti emergenti o musicisti indipendenti dietro i quali non ci sono grosse case discografiche. Tra l'altro leggevo che proprio Spotify ultimamente sta pure ritoccando l'algoritmo perché le royalties vengano riconosciute solo a partire dopo un tot che si ascolti la traccia. Insomma, tutto questo è diverso dalla filosofia di Bandcamp, però questo modello è entrato in crisi. È entrato in crisi in particolare dopo due acquisizioni, diciamo così. Esattamente, perché noi sul sito valori.it ci occupiamo di finanza etica, quindi abbiamo affrontato questo argomento dal punto di vista societario. Bandcamp è stata acquisita già diverso tempo fa da il gigante dei videogiochi Epic Games. Qualcuno si ricorderà di Epic Games perché aveva iniziato una guerra legale contro Apple e contro Google, tra l'altro una di queste due sta ancora andando avanti adesso. Però cos'è successo? Quando Epic Games ha acquisito Bandcamp, dopo poco se n'è liberata vendendo Bandcamp ancora a un'altra società, una società che si chiama Songtrad e si occupa soprattutto di licenze. Ma oltre ad aver venduto la società ad altri proprietari, quello che è successo è che pochi giorni dopo questa vendita il 50% del personale che lavorava a Bandcamp è stato licenziato. Quindi capite anche voi che nel momento in cui una società viene dimezzata viene in qualche modo svuotata di senso, e questo è questa la crisi, la parabola discendente di Bandcamp, che adesso è in forte difficoltà. Oltre alla questione ovviamente essenziale dei posti di lavoro, c'è il rischio anche che vengano poi cambiate, snaturate le regole che fino a questo momento hanno retto Bandcamp per l'equo compenso verso i musicisti? È un rischio, certo. Cosa ne sarà di Bandcamp? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi. Ci sono però dei segnali negativi, nel senso che intanto fino a un momento prima della vendita era stato assicurato a Bandcamp che la forza lavoro sarebbe rimasta la stessa, e invece poi la realtà è stata diversa. Cui tutte le promesse che vengono fatte prima c'è il rischio che poi vengano infrante. Io riporto le parole anche di un critico musicale, lavora internazionale, si chiama Giovanni Ansaldo. Proprio lui si è occupato di questa questione dicendo che questo raro luogo in cui gli artisti potevano guadagnare un compenso decente, ecco, è stata una piattaforma che tra l'altro non si affidava agli algoritmi come ormai siamo abituati a vedere. Questa piattaforma è ormai entrata in forte crisi, per quello che c'è da aspettarsi che le cose cambieranno. Le cose cambieranno anche perché in questo momento c'è un tentativo di formare un sindacato tra lavoratori, e anche questo tentativo viene osteggiato dalla nuova proprietà. Per cui, ecco, tutti i segnali, diciamo, negativi che vanno nella stessa direzione fanno pensare male, ecco.